La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come le sue immaginare. Ho pensato molto lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto vuole. Mettiti a sedere, cosa vuoi da bere, quello che hai pur che sia forte. Torno tra un momento, cerco un argomento, recitare la mia parte. Già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe un secolo prima per lui e per lei se lei tornasse vestita soltanto del bicchiere. Puoi tornare così, bella, bella, bella, bella, bella. Nell'accappatoio ed è proprio quella, quella, quella, quella, quella che io immaginavo. E la camera ora non fa con il odore di lei. Ba ba ba ba ballerina, ba ba ba. Prendiamoci una scossa, prendiamoci una scossa. Grazie.